la più bella. Oh Daniela, più bella non c'è, solo tu Daniela. Puoi credermi perché pensi sempre solamente a te. Oh oh oh oh, oh Daniela, tu sei tanto cara. Oh Daniela, non vedo che te da quel giorno in cui mai detto che m'ami con un bacio mai legato a te. Il tuo sorriso però è una luce per me, per vederlo vivrò qui con te. Parlo, parlo, ma poi ti amo troppo, lo sai, e ti giuro che mai fuggirò. Oh oh oh oh, Daniela, tu sei la più bella. Oh Daniela, più bella non c'è. Da quel giorno in cui mai detto che m'ami con un bacio mai legato a te.